America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Remy, cantante hip hop, questa è la canzone dell'estate. Remy è un cantante anche semicomico, devo dire, ma la canzone è Raise the Debt Limit, dunque l'estate americana è caratterizzata anche nella musica dal debito, alza il tetto sul debito. Ormai è un'ossessione devo dire anche per noi, perché l'accordo che sembrava fatto ieri notte è sfumato, sfiduciato, stanco, sconfitto. John Boehner, che ormai possiamo dire come l'ex uomo forte del Partito Repubblicano, ha gettato la spugna, l'ha gettata nella notte, pochi minuti prima di un voto che sembrava ormai scontato alla Camera, ormai sembrava di essere molto più vicino alla chiusura di quest'epica battaglia sul bilancio, con un copione già scritto da qui a lunedì che poteva evitare il default tecnico del governo americano. Ecco, in quel momento, nel momento in cui si doveva andare al voto, improvvisamente l'annuncio degli usceri, l'agenda è cambiata e si è cominciato a votare sui nomi di nuovi uffici postali dell'Illinois. Devo dire un passaggio alquanto stridente, e però è stato proprio in quel momento che si è capito quanto forte fosse la spaccatura fra la leadership repubblicana e i Tea Parties, una spaccatura insanabile. I mercati hanno reagito immediatamente, soprattutto quelli asiatici sono stati i primi, perdite tra lo 0,5 e l'1% a Shanghai, a Tokyo, a Pechino, poi l'onda lunga è arrivata fino all'Europa e adesso stiamo a vedere che succederà in America. A questo punto è possibile che la palla passi al Senato, che magari il Senato riesca a mettere insieme un progetto di legge che possa consentire, nel momento in cui andrà poi alla Camera, di formare una maggioranza bipartisan e dunque di isolare i Tea Parties alla destra del Partito Repubblicano. La scadenza, ricordiamolo, è il 2 agosto, nel pieno dell'estate, ma per cercare di così dare un tono un po' più ottimistico a questa estate americana, un tono magari un po' nostalgico, l'America si prepara ad andare in vacanza, noi stessi qui a Radio 24 ci prepariamo a fare una pausa estiva, anche il mio programma si interromperà con oggi, e dunque ho pensato che forse era il caso di cambiare un po' umore, di tornare indietro agli anni nostalgici dell'America, in cui l'America era innocente, era contenta, era felice, e quindi sentiamo alcune delle canzoni dell'estate che hanno fatto sognare l'America, cominciando da questa di Nat King Cole. Roll out those lazy, hazy, crazy days of summer, those days of soda and pretzels and beer. Roll out those lazy, hazy, crazy days of summer, dust off the sun and moon and sing a song of cheer. Canzone del 63, Nat King Cole, grande mito americano. Nat King Cole fu criticato per questa canzone, fu criticato dai suoi fan perché fu accusato di deviare verso il pop, nonostante le sue radici fossero delle radici jazz. Eppure questa canzone divenne uno dei grandi successi dell'estate del 63, arrivò al sesto posto nella classifica generale ed è a questo punto al secondo posto nella classifica delle canzoni estive più amate dagli americani. Ce n'è un'altra, sempre dal punto di vista nostalgico, che ha lasciato il segno. Well, I'm gonna raise a fuss, I'm gonna raise a holler. About working all summer just to try and earn a dollar. Every time I call my baby to try to get a date, my boss says, no dice, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, cause there ain't no cure for the summertime blues. Summertime Blues, Eddie Cochran. Direi una canzone appropriata per questi tempi. È la storia di un ragazzo molto deluso perché deve lavorare durante l'estate, parliamo dell'estate del 1958, e questo ragazzo ha 16 anni e dice: ma insomma, ma perché io devo perdere in questo caldo estivo il mio tempo per guadagnare un dollaro? Pensate, allora con un dollaro si campava, allora un teenager durante l'estate riusciva ad avere abbastanza potere d'acquisto con un dollaro per portare fuori la sua ragazza. La canzone fu talmente importante che fu interpretata da vari artisti, dai Beach Boys, gli Who e persino da Alan Jackson recentemente. Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirt and gritty. Bend down, isn't it a pity, doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match head. But at night it's a different world, go out and find a girl. Come on and dance all night, despite the heat it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer. Summer in the City, perché non tutti vanno fuori città, si resta anche a New York. Alcuni di voi avranno visto le immagini tipiche dell'estate newyorkese, estati che possono essere caldissime, e cioè quelle dei ragazzini magari ad Harlem oppure nei quartieri più poveri che aprono gli idranti e così si buttano sotto questi getti d'acqua per rinfrescarsi. Questa canzone è dei Loving Spoonful e andò al primo posto della classifica Billboard del 1966. Stiamo parlando sempre dell'epoca eroica, ingenua, felice degli Stati Uniti d'America nel pieno boom, quando erano superpotenza indiscussa, quando scoprivano nuove frontiere, quando eleggevano John Kennedy, quando si preparavano ad andare sulla Luna. Summer of 69, il percorso che abbiamo fatto partire dal 58 arriva a cavallo d'un decennio alla fine, e questa è una canzone più dura, una canzone post-Beatle già, con dei risvolti così un po' polemici, perché si pensa che sia l'anno 1969 e in effetti il riferimento è a quello, la canzone fu scritta negli anni 80, però ci fu poi una rivelazione. Il cantante Bryan Adams in un'intervista disse che in realtà la canzone parlava di sesso e quel numero molto particolare aveva un riferimento altrettanto particolare ai giovani che scoprivano certe intimità. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter, 24 America, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, vorrei chiudere con una canzone estiva del nostro tempo. Dimentichiamo Raise the Debt Limit, dimentichiamo i voli pindarici e nostalgici verso il passato e parliamo di oggi. Firework di Katy Perry, che quest'anno ha avuto uno straordinario successo. I fireworks sono i fuochi d'artificio del 4 di luglio. Il 4 di luglio è il simbolo dell'indipendenza americana e dunque chiudiamo con una nota ottimistica. Questa canzone, che parla anche di unità d'America in un momento in cui ce n'è molto bisogno, ha fatto di nuovo sognare gli americani. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens and no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let shine just on the night, like the 4th of July. 'Cause Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì 29 agosto. Buona estate a tutti, goodbye and get going!